Va ora in onda qua e là tra una novità e l'altra. Domenica da Pino Simplicio, qua e là tra una novità e l'altra, domenica 23 settembre 2012, tanti gli ospiti in studio, permettetemi soltanto prima di presentarvi gli ospiti e di passare al primo argomento di ricordare a me stesso che qua e là è iniziata il 4 ottobre 1998. Iniziamo una ennesima annata di qua e là tra una novità e l'altra. Ringrazio intanto l'editore Angelo Arduino per la fiducia, il direttore Mario Lombardo, responsabile della testata giornalistica, persona di grandissima esperienza, di spessore culturale, che non ci fa mai pesare la sua professionalità giornalistica, almeno a me mai, ci incoraggia sempre, e in tutti questi anni abbiamo condiviso questo percorso di qua e là tra una novità e l'altra. Grazie Mario, grazie soprattutto, ecco, per questo tuo modo di fare che sicuramente ci aiuta ed è molto conducente. E grazie soprattutto perché ogni anno anche tu ti metti in discussione, per noi è un fatto importantissimo. Non li ho lasciati per ultimo, me ne guarderei bene dal farlo. E poi ci sono i radioascoltatori. Noi siamo qua, avete sollecitato l'inizio di questa trasmissione domenicale che divido con il direttore Mario Lombardo, e ci alterniamo infatti ogni domenica. Sicuramente le argomentazioni che riguardano la nostra città di Cefalù, ma tutto il territorio, perché CRM è la radio che si sente e si vede un pochino nel mondo, è per noi da stimolo per cercare di fare meglio e di fare soprattutto informazione e comunicazione con la mente libera. Questo lo sottolineo, e all'inizio quando ringraziavo l'editore lo ringraziavo soprattutto perché caro Vincenzo e caro Gioacchino, lui sa gli argomenti soltanto quando arrivano a CRM il venerdì sera o il giovedì sera, e quindi poter divertirsi in una radio come CRM e continuare con le proprie idee libere mi sembra un fatto importantissimo. Ho anticipato i due ospiti che già sono in studio, li saluto, li ringrazio per essere qua a CRM, per aprire con noi questa annata 2012-2013. Ripeto, Gioacchino Barranco e Vincenzo Garbo, due consiglieri, ne attendiamo un terzo, appunto Giovanni Iuppa. Con loro tratteremo determinati argomenti che riguardano l'attività del Consiglio Comunale, ma andiamoci con ordine perché desidero iniziare proprio questa trasmissione parlando di salute. Mi sono ripromesso in questa annata che periodicamente ascolteremo il responsabile del nostro ospedale di Cefalù per tutto quello che significa poter avere una struttura come appunto il nostro ospedale di Cefalù. E io inizio con la persona più rappresentativa, che è il presidente Stefano Cirillo. Presidente, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica. E un caro saluto anche alle sue ragazze, perché so che oggi lei fa papà a tempo pieno, giusto? Allora, Presidente, inizio con lei per un fatto semplicissimo. Ho appreso con piacere che la Fondazione investe e continua a investire in nuove tecnologie, e questo ha per noi un significato particolare per il nostro ospedale di Cefalù. Presidente? Pronto? Presidente? Pronto? Se si avvicina, Presidente, così se si avvicina al suo microfono. Assolutamente vicino, non so se a lei ha la adesso tutto ok, mi dicono dalla regia. Le stavo dicendo, con piacere abbiamo avuto modo di leggere, di sapere e di conoscere che la Fondazione continua ad investire in nuove tecnologie per il nostro ospedale di Cefalù. Presidente. Assolutamente, assolutamente, continuiamo, come ovviamente è successo in questi ultimi anni. L'esempio appunto viene dato dall'ultimo impianto, che è di un defibrillatore di nuova generazione fatto dal nostro cardiologo dottore Giannola. È un impianto che si lega allo scompenso cardiaco e quindi che migliora la contrattilità del muscolo cardiaco e questo è stato possibile grazie al fatto che il dottor Giannola comunque si è formato nel tempo e può utilizzare le nuove tecnologie all'avanguardia messe a disposizione dalla ricerca. Sì. Non so se mi sentite. Sì, Presidente, la sentiamo benissimo, quindi se può continuare. Ah, perfetto, perché sì. Io non avevo questo ritorno, non ho il ritorno, quindi ho difficoltà. Non solo la sentiamo, ma anche la nostra trasmissione è seguita un pochino ovunque grazie a CRM e per radio.it. Prego, Presidente. Ovviamente l'uso delle nuove tecnologie all'interno della Fondazione va avanti già da diverso tempo. Vorrei citarne alcune giusto per entrare un attimino nell'argomento, però prima ancora per fare capire a chi ci ascolta quanto la tecnologia ovviamente e i nuovi investimenti aiutano per migliorare il benessere e comunque la salute. L'innovazione tecnologica è stata intanto un mese fa sotto gli occhi di tutto il mondo, basta pensare a Pistorius che ha fatto il record del mondo quindi nei 400 metri grazie a queste protesi al carbonio, quindi le nuove tecnologie, la ricerca aiutano l'uomo sicuramente a migliorare le proprie prestazioni e quindi anche il proprio benessere. Consideriamo che Pistorius è un amputato di entrambi gli arti e quindi là già basterà immaginare un attimo cosa può fare la tecnologia. Noi all'interno della Fondazione abbiamo investito negli anni, abbiamo diverse strumentazioni che sono all'avanguardia tecnologica, basta pensare un attimino a quelle che sono per esempio l'MRG FUS che è un sistema di risonanza magnetica legato agli ultrasuoni focalizzati, un investimento fatto dalla LATO che è il laboratorio di tecnologie oncologiche che permette mediante gli ultrasuoni di evitare l'intervento chirurgico per le pazienti che hanno dei fibromi uterini e viene utilizzato anche per altre metodiche e altre patologie. Abbiamo la IORT sempre della LATO, il laboratorio di tecnologie oncologiche che riduce i trattamenti radioterapici nelle pazienti con carcinoma della mammella ovviamente in dei casi selezionati, ma dico senza voler pensare intanto ai grossi investimenti elettromedicali si può pensare che la tecnologia aiuta, penso al ultimamente è stato messo a disposizione dei nostri utenti il referto online che è un sistema che attraverso la tecnologia consente al paziente, dico io di Castelbuono anziché di Petralia, di poter ritirare a casa direttamente il proprio referto di laboratorio senza dover appunto presentarsi sulla struttura. Abbiamo tantissimi esempi di tecnologia, da quella minore penso a Skype utilizzata per la riabilitazione, per assistere i pazienti a casa, i pazienti lungodegenti che vengono che tornano a casa e che dal reparto vengono gestiti e sono stati gestiti per aiutare le famiglie. Penso semplicemente alla laparoscopia, quanto l'innovazione tecnologica in laparoscopia e quindi per le chirurgie facilita oggi il rientro a casa e quindi un postoperatorio molto più breve dei pazienti. Ultima dei nostri operati, una paziente di isterectomia totale dalla dottoressa Tardino, per dire l'utilizzo però della tecnologia e dell'avanguardia di tutto quello che è innovazione tecnologica è legato assolutamente al professionista che la utilizza e devo dire da questo punto di vista ancorché nelle tecnologie avanzate e ovviamente in tutto quello che è elettromedicale noi abbiamo sicuramente investito nei professionisti, abbiamo investito in delle risorse umane che sono capaci, che sono qualificate, che sono sempre ovviamente all'avanguardia anche dal punto di vista della conoscenza e dell'innovazione tecnologica. E quindi la differenza è vero, lo fa l'investimento tecnologico, ma se non è legato alla risorsa umana capace, che si è formata, che ha un'alta professionalità, è di poca efficacia, quindi da questo punto di vista bisogna riconoscere ai professionisti la capacità ancorché prima alla tecnologia. Presidente, intanto grazie per queste conferme, la notizia l'aveva preso dal giornale di Sicilia di sabato 15 settembre. Presidente, la preoccupazione è sempre la stessa, preoccupazione tra virgolette. Il futuro del nostro ospedale, perché il nostro è ormai, e lo diciamo con orgoglio, un ospedale di eccellenza, perché il percorso è stato ed è di eccellenza. Ecco, il futuro del nostro ospedale, anche in termini di altre, chiamiamole apparentemente così, per usare un termine non poco tecnico, la possibilità per il nostro ospedale di Cefalù di proseguire anche in collaborazione con altri enti. Su questo le dico, è stato sui tavoli dell'assessorato, su alcuni tavoli tecnici al quale ho partecipato, ed è ancora lì l'ipotesi di un subentro dell'ISMET rispetto al partner privato, che è mancato, perché diciamocelo, il partner San Raffaele di Milano di fatto è venuto meno ormai da diversi mesi, perché è un partner che è fallito, che comunque era distante da noi già nel tempo, diciamo, questa distanza si era presa, perché comunque la nostra struttura è una struttura che, al di là del brand San Raffaele, è un ospedale prettamente siciliano, è un valore aggiunto della sanità siciliana, ha raggiunto i livelli che ha raggiunto grazie a tutti quelli che ci operano, quindi indipendentemente da quelle che erano, diciamo, le origini di questa sperimentazione gestionale. Oggi, essendo venuto a mancare il partner privato di questa struttura, si tende a cercare un partner d'eccellenza. Sicuramente l'ISMET sarebbe un valore aggiunto. Non credo in questo momento, questa è la mia sensazione, ovviamente negli ultimi giorni ho risentito l'assessore, ho visto un attimino qual è la situazione anche politica del momento, non ritengo che in questo momento sia facile pensare a sostituire il partner che non c'è più, anche perché, però francamente, lasciatemelo dire, sicuramente è benvenuto chi aggiunge valore e permette di rilanciare anche la struttura dal punto di vista dell'immagine, ma indubbiamente non è una struttura che ha risentito nei contenuti e nelle forme di questi passaggi e di queste esclusioni. È una struttura che continua ad andare avanti da sola, una struttura che ha raggiunto un'autonomia gestionale, si appresta a chiudere il terzo bilancio consecutivo praticamente in pareggio, quindi è una struttura solida che non ha un'esigenza immediata di trovare soluzioni, quindi la soluzione di un partner scientifico di valenza internazionale come può essere anche l'ISMET va assolutamente studiata nei dettagli, perché non si ripetano anche errori di procedure magari commessi in passato. Ecco, io prima intanto c'è una domanda, abbiamo in studio due consiglieri, il consigliere Barranco e il consigliere Garbo. Il consigliere Barranco le voleva rivolgere una domanda e poi io ne farò un'ultimissima e poi la lascio alla sua domenica. Senz'altro, ecco, prego, consigliere Barranco, senza tu. Presidente Cirillo, buongiorno, io ho avuto di conoscerla direttamente. E in questo momento è un passaggio molto importante, non dico solo per me come Gioacchino Barranco, in quanto ho usufruito del nostro ospedale per cure che riguardano mia moglie direttamente, ma è un problema che mi pongo a livello di tutta l'utenza, è un bacino importantissimo, vedevo che prima venivano gente da ogni dove, da tutte le parti della Sicilia e forse anche dalla Calabria, ed è quello che voglio parlare del reparto oncologico. Visto che ormai ai massimi vertici del reparto il dottore Blasi non c'è più, è stato trasferito a Palermo perché ha aumentato, diciamo, la sua professionalità e l'ha messo a disposizione del civico, lei nel futuro quale rassicurazione ci può dare in merito a tutto ciò che è stato un reparto, io lo definisco d'élite, perché dopo un anno e mezzo che ci vivo lì dentro devo solamente ringraziare lei e chi è che si è impegnato per questo ospedale. Grazie Presidente. Allora, su questo, che è poi il tema che ricorre frequente sulle voci che ci dicono che ogni tanto appunto dei professionisti, dei cervelli che abbandonano il San Raffaele, intanto mi permetto di dire, sono dei cervelli che si sono formati e hanno contribuito alla formazione delle professionalità all'interno della struttura, quindi a un certo punto hanno potuto scegliere, visto che sono vincitori di concorsi, parlo del primario di urologia, il dottore Savoca, eccellenza che abbiamo avuto fino a un anno fa, parlo del dottore Messana, Mimmo Messana, che è stato il nostro primario di radiologia, anche lui ha vinto al civico il concorso di primario, parlo appunto del dottore Blasi, che è l'ultimo in termini cronologico, che ha vinto il primariato al civico, ma questo deve fare riflettere anziché preoccupare. Se dei professionisti tanto capaci, se delle eccellenze vengono scelte nell'ospedale più grande della Sicilia per dirigere dei reparti, dei dipartimenti assolutamente dove l'alta complessità e la quantità di pazienti che sono sottoposti a gestire è anche superiore a quella del San Raffaele, ha un significato. La loro capacità sicuramente l'hanno trasmessa ai professionisti che hanno lasciato al San Raffaele e che hanno formato negli anni, che sono professionisti, penso al dottor Biancorrosso, come agli altri urologi, penso a tutti quelli della radiologia, e penso a tutti quelli dell'oncologia, al dottore Scala, come alle dottoresse, tutti questi professionisti che sono andati via, di fatto hanno lasciato perché hanno formato i nostri medici, le nostre professionalità sempre al rialzo, non lasciano un vuoto. Sicuramente questi apicali saranno sostituiti nel breve termine, indubbiamente, però non lasciano un problema di continuità. L'ospedale continua a dare risposte dal punto di vista sanitario, dal punto di vista tecnologico, assolutamente sempre in linea. È chiaro che è una struttura magmatica, perché se da un lato abbiamo, come dire, fatto a meno di questi professionisti proprio di recente e siamo pronti a sostituirli, dall'altro lato nel tempo abbiamo acquisito una serie di altre professionalità, penso negli ultimi due anni dal professore Marchesa, alla dottoressa Di Fiore, al dottore Tossi che continua a venire da Oxford, quindi abbiamo continuato a bilanciare le professionalità, i cervelli, ma d'altronde in questo momento credo che la struttura non abbia nessuna lacuna dal punto di vista delle specialità. Parlo dalla neurologia, dal dottore Grimaldi, alla riabilitazione, al dottore Galardi, all'ortopedia, Boniforti, Micale, cioè non riusciamo a individuare delle carenze di risposta. I nostri professionisti mantengono altissima l'eccellenza che riescono a proporre all'utenza, e questo ci fa stare tranquilli. È chiaro che continueremo a investire anche sulle professionalità e sui sanitari, che cercheremo di intercettare sempre gli apicali migliori, e questo fa parte però del movimento della struttura. Non è una struttura statica dove chi ci arriva ci resta per 50 anni, sarebbe pure grave un fatto del genere. Se voi andate ad analizzare gli ospedali dove c'è un professionista che sta là da 30, da 40 anni, sicuramente crea delle incrostazioni, non sono elastiche, non sono flessibili abbastanza per essere sempre all'avanguardia. Quindi il fatto che i professionisti che sono stati là tanto tempo si spostino e abbiano vinto dei concorsi di primario è assolutamente un fatto positivo per la nostra struttura, non è riduttivo. Prima di salutarla, il futuro del presidente Stefano Cirillo? Bella domanda, perché appunto fino a qualche giorno fa ovviamente mi candidavano con tutti quelli possibili e immaginabili. Io obiettivamente, per un fatto anche di opportunità, se per così si può dire, in questo momento non ho intenzione di candidarmi. Mi sarei candidato, lo dico forse anche controcorrente, soltanto con Lombardo, perché sono un autonomista dentro e sono un indipendente dentro, e quindi devo dire la verità, però per un fatto di opportunità non ritengo che da presidente, da figura neutra e neutrale rispetto alle logiche che devo mantenere come tecnico, non ritengo che sia opportuna una mia candidatura, e per questo ho fatto a meno, diciamo, di esporre anche in un momento sicuramente di transizione la struttura a speculazioni e a strumentalizzazioni che sicuramente non ci avrebbero aiutato. Questo però l'ho fatto e l'ho deciso, devo dire, ne ho parlato anche con i consiglieri, a patto che la struttura si svincoli dalle logiche sempre elettorali e sia sempre dinamica nelle scelte, appunto da quelle di acquisizione di risorse umane a quelle di acquisizione di tecnologia, al di fuori di qualsiasi etichetta, al di fuori di qualsiasi imposizione o strumentalizzazione, che io ritengo, forse con un pochettino di presunzione, che negli ultimi tre anni e mezzo di avere lasciato fuori la struttura. Io non ritengo di amministrare la struttura per appartenenza. Il mio ruolo è un ruolo super partes e devo garantire che la struttura non sia influenzata né da destra né da sinistra né da nessuna parte. Cioè, è un bene, dico sempre, dei siciliani, è un bene di chi ci lavora, e questi vanno tutelati. Ecco, io la ringrazio anche per questa risposta e per questa affermazione, perché in questi giorni abbiamo notato questi fuggi generale, perché c'è appunto la corsa ad andare a incrementare le liste per le prossime regionali. Intanto sappiamo che il nostro presidente intanto rimane al suo posto, e questo ci tranquillizza un pochino, lo posso dire, presidente? Ma sì, guardi, il mio incarico scade nel 2014, pace a tutti quelli che vorrebbero o prolungarlo o anticiparlo, non è così al momento. Presidente, io la ringrazio, la lascio alla sua giornata. Grazie. Con le sue splendide figlie, e in una prossima occasione sicuramente sarà presente fisicamente in studio. Con vero piacere, sempre, assolutamente, ritengo che il legame dell'ospedale col territorio passi anche attraverso voi. Grazie Presidente, buona domenica. Grazie, arrivederci. Ecco, io adesso passo la linea alla regia, però prima devo ricordare quali altri argomenti tratteremo stamattina. Con i due consiglieri parleremo dell'attività del Consiglio Comunale, in particolare della riapprovazione del bilancio consuntivo 2008, dell'approvazione degli insediamenti edilizi pugliesi a Ogliastrillo. Poi c'è un interrogativo: si autorizzerà prossimamente la costruzione di un complesso residenziale a Sant'Ambrogio? Due consiglieri già sono presenti, siamo in attesa che arrivi Giovanni Uppa, ma parleremo anche di sport. E qua io ai due consiglieri chiedo affettuosamente così di dare la precedenza al presidente e all'allenatore, perché debbono andare a visionare la prossima avversaria della SD Cefalù Calcio. Quindi questo lo facciamo, lo chiediamo cortesemente, e lo chiedo cortesemente ai miei ospiti. E abbiamo anche previsto un incontro col presidente della Zanella Basket per quanto riguarda la Serie C maschile, ma dopo i suggerimenti della regia.